perché il nostro cielo è tornato sereno, nell'azzurro limpido risplende già l'arcobaleno. Una voce nuova va per l'aria canora ed annuncia a Garrula che il nostro sole torna ancora. L'amor tornerà, domani sai più bello sarà, ritornerà nel cuore così la gioia ancora di vivere giocondi come un fior, che il nostro cielo è tornato sereno. Liete van le rondini nell'aria tiepida lassù. Sordo fugge il temporale, vinto si disperde già. Il mondo in festa, lieto si desta e dal lavoro ritorna già. Che felicità! L'amor tornerà, domani assai più bello sarà, ritornerà nel cuore così la gioia ancora di vivere giocando come un fior, che il nostro cielo è tornato sereno. Lieti van le rondini nell'aria tiepida lassù, nel cielo blu. Thank you.